saper quanto è preziosa la tua presenza qui, Gesù. Sei caro a noi tutti insieme. Quanto è magnifico il tuo nome, la Chiesa innalza a te. Quanto è prezioso senza qui, Gesù, sei caro a noi. Quanto è magnifico il tuo nome, noi lodiamo te. Vogliamo adorarti, oh Signore, vogliamo magnificare il tuo nome, perché tu veramente lo meriti di essere magnificato. Tu sei colui che ha salvato ognuno di noi, ci hai redenti, ci hai trasformati e ci hai portati al Padre. Ed è per questo che noi desideriamo la tua presenza e tutti insieme gridiamo e cantiamo. Quanto è magnifico il tuo nome, la Chiesa innalza a te. Quanto è preziosa, quanto è preziosa tua presenza qui, Gesù, sei caro a noi. Oh sì, sei caro a noi. Quanto è magnifico il tuo nome, noi lodiamo te. Ancora insieme noi diciamo, quanto è magnifico il tuo nome, oh sì, noi lodiamo te. Adoriamo te, oh, adoriamo te, oh Signore Gesù, adoriamo te, adoriamo te, adoriamo, noi adoriamo.